Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Siamo d'accordo ad aprire un tavolo tecnico con la Turchia e anche con la Russia, perché in questo momento partner come gli Stati Uniti, ma paesi importanti come la Russia, l'Egitto, la Turchia, sono fondamentali per trovare una soluzione alla crisi libica. La Libia ci interessa più di tutti gli altri paesi, perché è a poche centinaia di chilometri dalle nostre coste, dove non c'è oggi solo un problema di migrazione, c'è un rischio terrorismo, perché l'instabilità crea terrorismo. L'ha ribadito oggi, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, il ministro degli esteri Di Maio a proposito dell'importanza della Libia per l'Italia in questo suo tour diplomatico tra Bruxelles, il Cairo, Istanbul, a proposito appunto in particolare della Libia, anche se alla riunione del Cairo che c'è stata nel tardo pomeriggio, si è chiusa nel tardo pomeriggio, l'Italia non ha firmato la dichiarazione conclusiva perché considerata troppo sbilanciata contro la Turchia e Sarraj. Comunque il caos libico continua, anche perché oggi per iniziativa italiana c'è stato il generale Haftar, che è il contendente, il rivale del premier Sarraj, a Palazzo Chigi a Roma, ha incontrato Conte. Ci doveva essere anche Sarraj, doveva essere un'iniziativa importante italiana comunque del nostro governo, però Sarraj non si è presentato, secondo alcune fonti non sarebbe stato avvisato della presenza del suo rivale Haftar, mentre c'è un'agenzia di poco fa che vi spiegherò, che vi racconterò tra poco, insomma una vicenda un pochino misteriosa. Ci occuperemo di questo, naturalmente, poi dell'altra grande crisi, quella tra Stati Uniti e Iran, con i missili iraniani che hanno colpito basi americane, ma sembrerebbe che non ci siano stati morti. Anche questo è un po' un mistero, un giallo sul l'esito di questo bombardamento, però sembra che Trump non l'abbia presa male, anzi ha atteso anche un braccio pacificatore, una mano pacificatrice all'Iran. Ce ne occuperemo, così come di molte altre questioni. È una notizia anche arrivata poco fa, che riguarda invece la famiglia reale britannica. Harry e Meghan, Harry il secondogenito di Carlo e Diana, e sua moglie Meghan avrebbero deciso di rinunciare allo status di reali. Che cosa può significare questo? Lo scopriremo ascoltando naturalmente Effetto Notte. Voi potete come sempre scrivere i vostri commenti sulla pagina Facebook di Effetto Notte, oppure inviarli via SMS e WhatsApp al 349-238-6666. Via con la sintesi della giornata. La crisi in Medio Oriente, missili dall'Iran sulle forze americane, Trump assicura nessuna vittima nei raid, annuncia nuove sanzioni per Teheran, ma tende anche la mano per una pacificazione. La situazione libica, il generale Haftar incontra Conte a Palazzo Chigi, salta invece la visita del premier Sarraj. Intanto il leader turco Erdogan e il presidente russo Putin chiedono il cessate il fuoco tra le parti. All'Italia, per il primo ministro, per il ministro Patuanelli, è impossibile chiudere entro fine maggio. Atlantia sottolinea: non ci siamo sfilati. Ma il ministro dichiara anche per le autostrade l'obiettivo è togliere la concessione alla stessa Atlantia. Qualità delle cure in Italia, il Veneto al primo posto ma il sud migliora. Gran Bretagna, Harry e Meghan rinunciano allo status di reali. Calcio, D'Alpino eletto presidente della Lega di Serie A. Partiamo quindi dai bellicosi scenari internazionali. Non si è fatta attendere la reazione iraniana all'uccisione del generale Soleimani da parte degli americani. 15 missili iraniani nella notte sono stati lanciati contro basi americane in Iraq. Non ci sarebbero vittime tra i soldati americani, come anche confermato da Trump. Washington sarebbe stata avvertita sui bersagli scelti da Baghdad, a sua volta informata da Teheran. Il contrattacco iraniano è scattato alla stessa ora dell'operazione americana che ha ucciso il generale Soleimani. Le mani illesi i militari italiani a Erbil, protetti in un bunker. Il presidente americano Trump oggi ha parlato alla nazione, all'America, ha detto: finché sarò presidente l'Iran non avrà mai l'arma nucleare. Ha annunciato nuove sanzioni in arrivo per Teheran, ha detto: tutte le opzioni sono sul tavolo per contrastare la minaccia dell'Iran, ma tende anche una mano a Teheran dicendo che abbraccia la pace e vuole la prosperità per gli iraniani. Ne parleremo di questa nel corso di questa puntata, ma facciamo intanto il punto sui militari italiani. Erano preparati ad eventuali attacchi e si sono rifugiati in un'apposita area di sicurezza. Tutti illesi, militari di stanza Erbil, capitale del Kurdistan iracheno. Nessuno di loro è rimasto ferito nell'attacco missilistico contro la base statunitense. Né i mezzi e le infrastrutture hanno subito danni. Ma l'attenzione rimane comunque massima. La priorità assoluta, dice il ministro della difesa Guerini, è la sicurezza dei nostri militari. Poco meno di 1000 quelli impegnati in Iraq, nell'addestramento delle forze di sicurezza curde e irachene in funzione anti-Daesh, oltre 1000 in Libano e poco meno in Afghanistan. Un attacco, quello della scorsa notte, che secondo il ministro degli esteri Di Maio accresce la tensione in un contesto già critico e molto delicato. Condanna anche da parte del segretario generale della NATO Stoltenberg, che invita Teheran ad astenersi da ulteriori violenze. E intanto dall'Europa arriva l'appello della presidente della Commissione von der Leyen a fermare subito le armi in Iran, Iraq e Libia per lasciare spazio al dialogo. Venerdì, vertice straordinario dei ministri degli esteri europei, al quale potrebbe partecipare anche il capo della diplomazia di Teheran, Zarif. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore. L'attacco iraniano alle basi americane in Iraq ha spinto in terreno negativo le borse asiatiche, ma non quelle europee. Dopo un'iniziale reazione negativa, i listini del vecchio continente già a metà giornata hanno invertito la rotta. Il FTSE MIB ha chiuso in progresso dello 0,46%, più 0,7% per Francoforte, più indietro Parigi, più 0,3%. La borsa di Londra è rimasta sulla parità in attesa di indicazioni sulla Brexit. Bene anche Wall Street, con tutti gli indici in crescita e gli investitori rassicurati dalle parole del presidente americano Trump. Prezzo del petrolio in calo a New York di oltre 2 punti percentuali per l'aumento inatteso delle scorte petrolifere americane. Le quotazioni erano schizzate subito dopo l'attacco iraniano. Sul peso dell'attuale situazione geopolitica sul prezzo del petrolio sentiamo Carlo Benetti di GAM Italia SGR, intervistato da Marco Mancini. Ecco, il petrolio, l'elemento più sensibile a quanto sta accadendo, e infatti lo vediamo come abbia reagito al primo accenno di tensioni, è pur vero che il petrolio però rispetto a 10 anni fa, poniamo, non è più quella pistola puntata alla tempia della crescita globale. I driver, gli elementi di fondo sono altri. Libia, alla riunione ministeriale del Cairo sulla Libia, l'Italia non ha firmato la dichiarazione conclusiva, giudicandola troppo sbilanciata contro la Turchia e contro il premier Sarraj, e il ministro degli esteri Luigi Di Maio ha invitato alla moderazione al fine di non spaccare l'Unione Europea. Lo si è preso a margine della riunione durante la quale Di Maio si è battuto, così ha detto, per smussare la dura posizione degli altri paesi nei confronti appunto della Turchia e del primo ministro libico Sarraj. L'altra notizia importante, sempre relativa alla Libia, è l'incontro che il generale Haftar ha avuto con Conte, il nostro presidente del Consiglio, oggi a Palazzo Chigi. Saltata invece la visita del premier riconosciuto dall'ONU Sarraj, poi cercheremo di capire perché. Intanto il leader turco Erdogan e il presidente russo Putin chiedono il cessate il fuoco tra le parti, sarà poi questo tema di approfondimento. E, tra l'altro, vi dicevo che vi avrei aggiornato su questa notizia arrivata poco fa, precisazione sulla saltata visita di Sarraj. Dice la ragione, questo lo si apprende da fonti diplomatiche, la ragione del rinvio da parte di Sarraj dell'incontro con Conte è dovuto a una fake news abilmente fatta girare in Libia, per cui Conte voleva far incontrare Sarraj con Haftar, cosa che ha scatenato polemiche fortissime in Libia. Poi comunque ci torniamo. Adesso invece concentriamoci su Alitalia, perché non c'è ancora una soluzione per la compagnia aerea. La conferma dalle parole del ministro dello sviluppo economico Patuanelli davanti alla Commissione Trasporti della Camera. Non c'è scritto da nessuna parte che ci sia il closing entro maggio, dice, è materialmente impossibile. Il 31 maggio è il termine dato al commissario per espletare la procedura di cessione. Atlantia ribadisce di essere disponibile a un confronto per il rilancio della compagnia, ma il ministro Pentastellato la liquida, la società dei Benetton, dice inutile continuare a parlare di Atlantia, e a Porta, nella puntata registrata di questa sera, ha ribadito l'obiettivo di togliere le concessioni autostradali ad Atlantia. A proposito di manutenzione e sicurezza delle autostrade, il Tribunale del Riesame di Avellino ha bocciato le 3 istanze di dissequestro dei cavalcavia autostradali, fra cui quello del Cerrano, presentate appunto da Autostrade. Poi faremo anche un punto sul, diciamo, i fronti più caldi per quanto riguarda la sicurezza stradale e autostradale. Una notizia che riguarda l'immigrazione: nel 2019 il numero degli ingressi irregolari nell'Unione Europea ha toccato il livello più basso dal 2013, lo comunica Frontex in una stima. Secondo le prime cifre raccolte, gli ingressi sono stati poco più di 139.000, il 6% meno del 2018 e il 92% in meno del record raggiunto nel 2015. A proposito di immigrazione, in Calabria, a Rosarno, dopo la prima volta, dove per la prima volta dei braccianti extracomunitari denunciano i loro caporali in quella stessa città, come ricordate, già teatro della rivolta dei migranti. 10 anni dopo i caporali erano sempre lì e lo sfruttamento sempre lo stesso, 2-3 euro l'ora per turni fino a 12 ore. Ma 10 anni dopo la protesta a Rosarno, per la prima volta due migranti denunciano le condizioni di lavoro e i caporali e 20 persone vengono arrestate. Cittadini extracomunitari, interfaccia di aziende agricole e cooperative della piana di Gioia Tauro. Era andato a reclamare la paga, ma per questo era stato picchiato con un forcone. È stato dopo questa aggressione che un bracciante senegalese si è rivolto ai carabinieri, come poi ha fatto anche un nigeriano. Tra piante di arance e kiwi lavoravano 7 giorni su 7 senza protezione e per una manciata di euro in quegli stessi campi dove a novembre un giovane è stato trovato senza vita. 10 anni dopo la protesta, infatti, anche se la baraccopoli di Rosarno è stata smantellata, non sono cambiate le condizioni di vita dei braccianti extracomunitari e ancora una volta tocca alla magistratura e l'amarezza della procuratore di Palmi, Ottavio Sferlazza, supplire alle mancanze della politica. Rilievo critico all'assenza di una reale politica di integrazione e di accoglienza. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ancora all'estero, un team di esperti ucraini arriverà nelle prossime ore in Iran per stabilire la verità sull'aereo della Ukraine International Airlines, precipitato questa mattina poco dopo il decollo dall'aeroporto di Teheran, con 176 persone a bordo, tutte morte nello schianto. Lo rende noto sulla sua pagina Facebook il presidente ucraino, perché c'è stato il sospetto, la coincidenza, insomma, dei missili lanciati da Teheran su anche questa rispetto a questo incidente aereo, anche se vedo ora, proprio in questo istante, un dispaccio di agenzia che dice: le agenzie di intelligence occidentali scartano per ora l'ipotesi che il Boeing 777 ucraino, caduto poco dopo il decollo da Teheran con 176 persone a bordo, sia stato colpito da un missile. Per ora l'intelligence occidentale lo esclude. Parliamo di Australia, sempre più critica la situazione. Abbiamo parlato anche ieri parlavamo di questo miliardo di animali, secondo WWF Australia, che sono morti, mentre si registra una nuova vittima tra i vigili del fuoco. Il tennis però non ferma gli Open di Melbourne, che devolveranno però in beneficenza i ricavi del torneo. 2.000 case distrutte, 80.000 chilometri quadrati in fumo e una nuova vittima tra i pompieri, che aggiorna il bilancio complessivo a 26 morti. Non accenna a placarsi l'emergenza incendi in Australia. Le autorità hanno diramato nuovi avvisi di evacuazione e l'invito a partire prima che si ripresenti un nuovo picco di calore e con esso il rischio di altri incendi nelle zone più esposte. Per risolvere il disastro causato dalle fiamme, dicono gli esperti, ci vorranno mesi. Per ora il governo ha stanziato aiuti per 1,4 miliardi di dollari, ma sono già state presentate richieste per quasi 500 milioni. Le immagini dai satelliti mostrano le colonne di fumo che ricoprono la costa sudorientale e la devastazione dell'isola dei canguri, costituita per un terzo da riserve naturali protette. E mentre il Papa esprime vicinanza al popolo australiano, il tennis ha deciso di non fermarsi. Gli Open di Melbourne, torneo che apre la stagione del Grande Slam, non saranno posticipati né annullati. I grandi campioni scenderanno in campo in una serie di match esibizione per raccogliere fondi. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Dall'Australia alla Colombia, dove continuano gli omicidi di difensori dei diritti umani. L'ultima vittima è Gloria Ocampo, uccisa ieri in casa nel villaggio di La Estrella, nel dipartimento di Putumayo. Si tratta della prima leader sociale uccisa nel paese nel 2020. Secondo quanto riferito dal quotidiano El Espector, la donna, 37 anni, era segretaria del Comitato di Azione Comunale di La Estrella ed era stata delegata dei piani di sviluppo con approccio territoriale, un programma nato nell'accordo di pace colombiano per il supporto di 170 comuni del paese colpiti da alti livelli di violenza. Secondo l'Istituto di Studi per lo Sviluppo e la Pace della Colombia, 623 leader sociali e difensori di diritti umani sono stati uccisi in Colombia nel periodo tra novembre 2016, quando furono firmati gli accordi di pace, e luglio 2019. Di nuovo in Italia, giudizio immediato il prossimo 13 marzo ad Ancona davanti alla Corte d'Assise per i 6 componenti del modenese della cosiddetta banda dello spray, accusati tra i vari addebiti di omicidio preterintenzionale per aver spruzzato spray al peperoncino per commettere furti e rapine nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, vi ricordate, vicino Ancona, la notte tra il 7 e l'8 dicembre del 2018, dove morirono nella calca 5 adolescenti e una madre di 39 anni. Tra le accuse, associazione per delinquere, lesioni gravissime e furti in varie parti d'Italia. La qualità delle cure. Il Veneto è al primo posto nella classifica delle regioni che assicurano le migliori cure ai cittadini e toglie il posto al Piemonte, che scivola al quinto. Mentre Campania e Calabria, pur se a fondo della classifica, migliorano nettamente i punteggi. Questo a quanto si apprende i dati della nuova griglia dei livelli essenziali di assistenza, cioè i LEA, su 33 indicatori dai ricoveri agli screening, che fa riferimento all'anno 2018 e che verrà pubblicata dal Ministero della Salute. Il Veneto è in cima con 222 punti su 225. Per chiudere lo sport con un paio di notizie tra pallone e pali, Dario Ricci. Fumata bianca. Paolo Dalpino è stato eletto presidente della Lega di Serie A con 12 voti, uno in più del quorum. Si chiude così il periodo di assenza del presidente dopo le dimissioni il 19 novembre di Gaetano Micciche e le dimissioni successive del commissario ad acta Mario Cicala. L'assemblea, presieduta da Giancarlo Abete, neocommissario, è rimasta divisa in due gruppi ben distinti. A prevalere alla fine è stata la cordata capeggiata dal presidente della Lazio, Lotito. Un altro gruppo, invece, tra a cui Juventus, Inter e Torino, ha insistito sul nome di Micciche, che pure già aveva negato la sua disponibilità a ricoprire di nuovo il ruolo. Alla fine così l'urna ha premiato Dalpino, classe 62, top manager delle telecomunicazioni, che parla fluentemente almeno 3 lingue. Chissà se basteranno per far dialogare le diverse anime della Confindustria del pallone. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Bene, e direi con questo che ci possiamo momentaneamente, brevemente lasciare, così diamo aggiornamenti per chi sta viaggiando. 349-238-6666 è il numero per vostri sms e whatsapp, per i vostri commenti. Pagina Facebook di Effetto Notte, vedo un lungo commento, analisi di Franco, di un ascoltatore, su iraniani e americani. Poi vediamo se c'è tempo per leggerlo tutto, ci sentiamo a momenti. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. 60 minuti come sempre con Roberto Giordano, pieni, ricchi, ricchi di informazioni, di aggiornamenti in diretta. Vi avevo dato anche aggiornamenti appunto sui motivi per cui il premier libico Sarraj non sarebbe venuto a Roma a Palazzo Chigi, e così come sull'aereo caduto in ucraino che non sarebbe stato colpito secondo l'intelligence occidentale da missili. E poi la sintesi della giornata che avete appena sentito, e tra poco gli approfondimenti con gli ospiti. Vi ricordo per i vostri messaggi pagina Facebook di Effetto Notte oppure il 349 238 6666, che è il numero per messaggi, sms e whatsapp. Franco dice: buonasera, gli iraniani sono consapevoli che Trump può essere eletto per la seconda volta. I recenti disordini all'interno dell'Iran hanno dimostrato un malessere che può riesplodere facilmente, anche per le conseguenze delle sanzioni economiche che colpiscono l'Iran e che vedono in Trump il principale sostenitore. Insomma, secondo Franco potrebbe essere stato coordinata questa uccisione del generale iraniano Soleimani dagli stessi Ayatollah, quindi gli stessi iraniani, proprio per compattare, dice la società. Vedremo, Franco, quando poi approfondiremo questo argomento nel corso della puntata, se gli analisti sono d'accordo con questo punto di vista. Adesso invece vi ricordo brevemente, prima di cominciare con il primo tema e col primo ospite, gli argomenti più importanti della giornata. Per l'appunto la crisi in Medio Oriente con i missili dall'Iran sulle forze americane. Trump però ha assicurato nessuna vittima nei raid e annuncia nuove sanzioni per Teheran, ma nello stesso tempo tende una mano pacificatrice. La situazione libica: il generale Haftar incontra Conte a Palazzo Chigi, salta invece la visita del premier Sarraj. Intanto il leader turco Erdogan e il presidente russo Putin chiedono il cessate a fuoco tra le parti. Per l'Italia il ministro dello sviluppo economico Patuanelli ha detto impossibile chiudere entro fine maggio. Atlantia però sottolinea: a noi non ci siamo sfilati. Qualità delle cure in Italia, l'avete sentito, il Veneto è al primo posto ma il sud migliora. E poi Gran Bretagna, un'altra notizia di cui ci occuperemo nel corso di questa puntata: Harry e Meghan rinunciano allo status di reali. Che cosa succederà quindi a questo punto? Lo scopriremo appunto più tardi. Calcio: Dalpino è stato eletto presidente della Lega di Serie A. Naturalmente, sempre protagoniste delle principali notizie di questo inizio d'anno sono le due principali crisi internazionali, quella che vede coinvolti Stati Uniti e Iran, con in mezzo l'Iraq, ne abbiamo parlato molto in questi giorni, e quella relativa alla Libia, soprattutto quest'ultima che ci vede coinvolti molto da vicino, sia proprio per una questione di vicinanza geografica, ma ovviamente non solo, lo sapete, abbiamo ripetuto più volte, interessi commerciali, diplomatici, e poi la questione della gestione dell'immigrazione, del terrorismo, tanto che il ministro Di Maio, mentre il presidente russo Putin e il leader turco Erdogan lanciano insieme un appello per il cessate il fuoco a entrambe le parti in Libia, Di Maio sta facendo un tour diplomatico tra Bruxelles, Istanbul e l'Egitto, anche se in serata è arrivata la notizia che vi dicevo che alla riunione ministeriale del Cairo sulla Libia l'Italia non ha firmato la dichiarazione conclusiva di questo vertice, giudicandola troppo sbilanciata contro la Turchia e contro il premier riconosciuto dall'ONU Sarraj e sostenuto anche dalla Turchia. Di Maio ha quindi invitato alla moderazione e dice questo non deve spaccare l'Unione Europea. Altra iniziativa però che ha fatto pensare almeno a un piccolo recupero di ruolo dell'Italia nella gestione della crisi libica è stata la presenza oggi a Palazzo Chigi, piuttosto inaspettata almeno per i più, del generale libico Haftar, il rivale del premier Sarraj, uno dei due contendenti del potere in Libia. L'annuncio, e poi l'annunciato arrivo, anche questo va fatto ben pensare, dello stesso premier del governo di unità nazionale Sarraj. Però questo era un colpo di scena, che però un coup de théâtre direbbero i francesi, che però è stato a sua volta funestato da un altro colpo di scena, cioè il fatto che Sarraj abbia deciso di non venire più, di non incontrare più a Palazzo Chigi Conte. Questo perché? Allora, secondo delle prime ricostruzioni e lo stesso accusa di Salvini, Salvini ha detto è un governo incapace, Conte incapace, non ha avvisato Sarraj che avrebbe incontrato anche Haftar. Però, mentre saluto la nostra Betta Fiorito in diretta da Roma, ciao cara Betta. Buonasera, buonasera radioascoltatori. Vedevo da fonti diplomatiche, che però non si capisce se sono italiane, libiche o di dove, la ragione del rinvio da parte di Sarraj dell'incontro con Conte è dovuto a una fake news abilmente fatta girare in Libia, per cui Conte voleva far incontrare Sarraj con Haftar, cosa che ha scatenato polemiche fortissime in Libia. Che ne pensi tu, Betta? Perché mi sembra un po' strano che il governo italiano abbia fatto questo scivolone di voler invitare tutte e due senza avvisare l'un l'altro della reciproca presenza. Ma un'altra fake news sembra, no? Che praticamente Sarraj non sia venuto perché Conte abbia prima incontrato Haftar, no? Quindi c'era questa questione di gelosia, sì, dice, prima lui le priorità, sì, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, sì. Io credo che è stato un evento gestito male, cioè dall'esito potremmo dire che è stato gestito male, no? Cioè il momento che l'Italia, grazie al fatto che la Libia è una nostra ex colonia, insomma c'è questa liaison, decide di diventare lo snodo diplomatico, poi diventa una gaffa diplomatica, quindi un pochino forse andava gestito un attimo meglio, cioè che Sarraj da Bruxelles decida a un certo punto di prendere l'aereo e di non passare per Roma ma di andarsene direttamente a Tripoli, beh, la dice lunga sulla la nostra disabilità di fare diplomazia. Quindi tu dici che è stato un po' un errore grossolano questo? Beh, direi di sì, Betta, no? Poteva magari convocare Haftar un giorno e Sarraj il giorno dopo per evitare questo. Invece si è voluto un pochino forse strafare e questo poi ha provocato che Sarraj se ne sia andato. Subito dopo che Sarraj ha detto io non vengo a Roma, allora l'Italia poi al Cairo ha evitato di votare questo documento che sarebbe stato contro Sarraj e contro Tripoli che lo sostiene. E la Turchia che lo sostiene, per dire è troppo sbilanciato, allora ci riposizioniamo. Insomma, delle due l'una, sappiamo benissimo che Sarraj è sostenuto dall'Italia, no? E dalla Turchia, ma anche dall'Italia, mentre lì Haftar è sostenuto dalla Russia e poi dalla Francia. Quindi insomma vediamo come va a livello internazionale il cessate il fuoco poi proposto dai due veri contendenti che sono Turchia e Russia, mi sembra. Sì. E poi vediamo se domenica si riesce a stabilire che c'è effettivamente questo cessate il fuoco, ovviamente un pochino anche dovuto al fatto che mi sembra l'impresa di Misurata non sia stata così tanto di successo per Haftar, e vediamo cosa succede. Cioè, il paese è in guerra civile, però bisogna capire, cioè Haftar stava a Roma, poi nello stesso momento il suo generale diceva no fly zone anche a Tripoli. Insomma, la situazione sembra ancora in via di definizione, vediamo come va il cessate il fuoco, ma soprattutto l'Italia si è proposta, il che è importante, però ancora a livello diplomatico non è riuscita nell'impresa, questo lo possiamo dire tranquillamente. Cioè, certo, l'Italia da sola non può fare grandi cose, no? In questo contesto così complesso, in questo scenario internazionale così diciamo difficile da gestire, però ecco, questa forse potrebbe essere un'occasione persa, almeno da questo punto di vista, con questa interpretazione, mentre appunto vedevo adesso, anche se sono saltate tutte le agenzie improvvisamente, adesso che sono appunto il governo italiano che dice è una fake news che è stata messa appunto evidentemente apposta in circolazione per irritare Sarraj. Comunque, insomma, per il momento è andata in questo modo. Non lo so, insomma, ma Salvini la pensa in maniera diversa, dice che praticamente Conte è un incapace, anche mi sembra Schifani. Insomma, il centrodestra sta attaccando su questa cosa, anche Giorgia Meloni dice vogliamo essere il centro, poi che facciamo? Insomma, un po' poteva essere gestita meglio. Ecco, diciamo che è importante che l'Italia ci provi, però magari un pochino, con un pochino più consigli diplomatici. Di savoir-faire, insomma. Sì, insomma, non si possono convocare i due generali così perché dovevamo fare questo coup de théâtre. Questo coup de théâtre non è... È riuscito a metà, diciamo. È riuscito a metà, e l'importante è però che veramente poi si raggiunga il cessate il fuoco e che la guerra civile finisca. E poi queste sono tutte polemiche italiane che hanno un côté molto secondario rispetto alla situazione anche grave del paese. Chiaro. Grazie Betta Fiorito da Roma. Grazie a voi. Ciao cara Betta. E buon anno, tra l'altro, Betta, che abbiamo ritrovato proprio oggi in questo nuovo anno di Effetto Notte. Allora, direi di fermarci momentaneamente per una pausa di sospensione, di respiro, di riflessione. Voi continuate con i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666, che vi ricordo sempre il numero per SMS e WhatsApp. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, vi avviso, questo è un programma che dà dipendenza. Quindi anche in questo nuovo anno, il 2020, Roberta Giordano sempre con voi, dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 22, per raccontarvi a fine giornata tutto quello di più importante c'è da sapere dall'Italia e dall'estero. Una sfida quotidiana nel cercare appunto i 60 minuti di darvi questo quadro chiaro e il più possibile esauriente. Allora, abbiamo parlato della crisi libica, delle iniziative dell'Italia nelle ultime ore dalla vertice al Cairo con questa riunione ministeriale, e che però l'Italia non ha firmato nella sua dichiarazione conclusiva perché è troppo sbilanciata, secondo Di Maio, nei confronti della Turchia e di Sarraj, cioè nel senso contro la Turchia e Sarraj. E poi adesso parleremo invece dell'altra grossa crisi internazionale. Intanto vedo i vostri messaggi, varie analisi. Dice Marco: visto le immagini dell'attacco iraniano mi è sembrato che li hanno lasciati fare perché sapevano già una volta partiti dove sarebbero caduti e che non avrebbero fatto grossi danni. Ne parliamo tra poco. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp e i vostri commenti, oppure comodamente scriveteli sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Ecco, a proposito dei missili, dell'attacco di questa notte, dei missili iraniani su basi americane in Iraq, di cui parlava anche l'ascoltatore e di cui parliamo adesso, perché questa appunto è l'altra grossa crisi internazionale di questi giorni, scoppiata in Medio Oriente, come sapete, dopo l'uccisione in Iraq, in un blitz americano deciso da Trump, del potente generale iraniano Soleimani. L'Iran, come vi ho raccontato più volte in questi giorni, ha giurato vendetta e oggi questa vendetta, o meglio, nella notte questa vendetta è arrivata. 15 missili, i missili iraniani nella notte sono caduti sulle basi americane in Iraq. Non ci sarebbero vittime tra i soldati americani, cosa che avrebbe confermato anche il presidente americano Trump nel suo discorso che ha tenuto oggi alla nazione. Ricordo che questo contrattacco iraniano nella notte è avvenuto nella stessa ora, mezzanotte, dell'operazione americana che ha appunto ucciso il generale Soleimani. Illesi anche, per fortuna, i soldati italiani a Erbil, protetti in un bunker. Le guardie della rivoluzione islamica hanno annunciato di aver ucciso almeno 80 nemici, di averne feriti più di 200. Donald Trump, come dicevo, ha minimizzato, ha detto è andato tutto bene. Gli americani quindi non confermano alcuna vittima, lo stesso hanno fatto qualche ora dopo le autorità di Baghdad, quindi le autorità irachene, e quelle regionali curde di Erbil. Il contrattacco dell'Iran si è concluso quindi con un bilancio piuttosto incerto, però in modi diversi evidentemente tutti possono dirsi soddisfatti. Ma quello che possiamo dire senz'altro è che si è trattato, usiamo questo termine per capirci, un po' di un attacco telefonato, perché nel senso evidentemente Washington è stata avvertita, sarebbe stata avvertita dei bersagli scelti, sarebbe stata avvertita dalle autorità di Baghdad, Baghdad a sua volta informata da Teheran, quindi dagli iraniani, come gli iraniani avessero detto guardate che noi attaccheremo alla talora, attaccheremo questi bersagli. Allora Khamenei, il leader iraniano, ha avvertito, ma non è finita qui, mentre il ministro degli esteri iraniano Zarif cerca il dialogo. Infatti Trump che cosa ha fatto in questo discorso oggi alla nazione? Ha detto finché sarò presidente l'Iran non avrà mai l'arma nucleare, ci sono nuove sanzioni in arrivo per Teheran. Sentiamo questo passaggio di Trump dove dice i nostri missili sono grossi, letali, eccetera eccetera. US armed forces are stronger than ever before. Our missiles are big. I nostri missili sono più forti di sempre, sono grossi, sono veloci, insomma sempre un po' per minacciare l'Iran. Ha detto ci saranno nuove sanzioni in arrivo per Teheran, tutte le opzioni sul tavolo per contrastare la minaccia dell'Iran. Però ha detto anche una cosa abbastanza sorprendente, insomma dopo l'uccisione di Soleimani e le reciproche minacce, ha detto noi siamo pronti, noi americani, ad abbracciare la pace e vogliamo per il popolo iraniano prosperità. Sentiamo anche quest'ultimo passaggio dove dice serve un accordo per far prosperare l'Iran. Finally, to the people and leaders of Iran, we want you to have a future and a great future, one that you deserve, one of prosperity at home and harmony with the nations of the world. The United States is ready to embrace peace. Allora, saluto Annalisa Perteghella, analista dell'ISPI, l'Istituto per gli Studi Politici Internazionali, esperta di Medio Oriente e Nord Africa. Buonasera Perteghella. Buonasera a voi. E il nostro Marco Valsania, corrispondente del Sole 24 Ore degli Stati Uniti. Ciao Marco. Ciao, buonasera. Allora, prima di passare alla parte americana, per quanto riguarda Perteghella, appunto, l'Iran ha voluto dimostrare in qualche modo di reagire all'uccisione del generale Soleimani con le minacce fatte in questi giorni, vendetta per l'America se non se ne andranno dall'Iraq sarà un nuovo Vietnam, però è effettivamente stato telefonato, cioè stati avvisati alla fine dove colpivano, in che momento, in che luogo? Perteghella, che sì, era un attacco, esatto, per modo di dire? Esatto, diciamo così, l'Iran in qualche modo era obbligato a rispondere e appunto avvisando le autorità irachene che avrebbero poi avvisato le autorità statunitensi, si è evitato le vittime, insomma, che sarebbero state poi quello che avrebbe scatenato la risposta eventuale statunitense. Non è detto però che sia tutto finito qui, nel senso per ora oggi abbiamo tirato tutti un respiro di sollievo quando Trump appunto ha annunciato in qualche modo la de-escalation, dicendo appunto le forze americane sono le più potenti, eccetera, eccetera. La risposta iraniana ovviamente non poteva essere molto più di questo, perché appunto Trump aveva fatto capire di essere disposto a rilanciare, cosa che l'Iran non vuole, non può subire in questo momento. Io credo però che continuerà una strategia, diciamo, di tensione strisciante nella regione, soprattutto appunto in Iraq, dove appunto le forze americane sono per il momento ancora presenti. E infatti si vede questo un po' passarsi la palla tra il ministro degli esteri Zarif, che tiene aperta la via diplomatica, diciamo così, esatto, e Khamenei, che invece fa, diciamo, il poliziotto cattivo e annuncia che questo era soltanto l'inizio, ecco, perché l'obiettivo strategico iraniano sul lungo periodo è quello chiaramente di avere una zona di sicurezza il più ampia possibile nella regione attorno a sé, quindi potenzialmente arrivare alla partita degli Stati Uniti. Regione. Su questo Marco Valsania, allora Trump effettivamente, quindi dopo aver sferrato il colpo, ucciso il generale e diciamo così attutito l'attacco iraniano, questo attacco per cui insomma molti ascoltatori stanno scrivendo attacco per modo di dire, appunto perché sono stati avvisati eccetera eccetera, però come diceva Perteghella per forza l'Iran doveva reagire in qualche modo. La strategia, ci si chiedeva in questi giorni, di Trump quale fosse, a molti appare in questo momento il vincitore Trump di questa, chiamiamola tra virgolette, partita, no? Perché l'Iran ha fatto in qualche modo finta di reagire e Trump ha potuto dire attenzione perché noi abbiamo missili più forti eccetera eccetera, ci saranno nuove sanzioni per l'Iran, però noi siamo qui pronti al dialogo, ad abbracciare la pace. Sicuramente diciamo in questo momento diciamo da questa spirale, questo spettro diciamo di un drammatico peggioramento della situazione, di un conflitto incontrollabile, in questo momento Trump esce, può vantare diciamo un successo perché ha eliminato Soleimani e il diciamo così il prezzo pagato diciamo con la rappresaglia iraniana è sicuramente stato un prezzo appunto come ricordavi telegrafato è molto limitato. Quindi diciamo nell'annuncio che ha fatto la Casa Bianca questo è stato proprio il tono diciamo scelto da Trump. Resta però da vedere come sottolineava anche il tuo ospite cosa succede in prospettiva, ecco, non è affatto detto che la tensione sia finita qui. La risposta è asimmetrica iraniana, famosamente asimmetrica iraniana, cioè restano aperte le incognite sulla strategia americana di Donald Trump sull'Iran e sul Medio Oriente restano assolutamente irrisolte, come sottolineano anche i critici dell'opposizione democratica, perché non è chiaro quale sia a questo punto quali siano i passi strategici americani nei confronti dell'Iran e del Medio Oriente, se c'è un rilancio davvero di una pista diplomatica suggerito alcune dichiarazioni di Trump oppure no, perché finora passi concreti appunto non ce ne sono, quindi potremmo essere davanti, siamo sicuramente davanti a una de-escalation su cui tutti appunto possono tirare un sospiro di sollievo, ma non siamo certo davanti a una soluzione del dilemma medio orientale o a un chiarimento di quella che è la strategia dell'amministrazione nei confronti del Medio Oriente. Annalisa Perteghella, allora c'è un ascoltatore, anche altri ascoltatori e ascoltatrici fanno osservazioni di questo tipo, diceva Franco, gli iraniani sono consapevoli che Trump può essere rieletto per la seconda volta adesso a fine 2020, i recenti disordini all'interno dell'Iran, quindi malessere, dimostrazioni, hanno dimostrato appunto che può riesplodere facilmente il malessere anche per le conseguenze delle sanzioni economiche sostenute in particolare da Trump, dice da qui potrebbe nascere la necessità dell'Iran di un nemico esterno e quindi vede il complotto, no? In qualche modo e anche gli Ayatollah, le autorità religiose iraniane avrebbero appoggiato questa eliminazione del generale per compattare il popolo iraniano contro il comune nemico. È possibile, è plausibile questa lettura, Perteghella? Ma diciamo che in queste ore abbiamo sentito un po' di tutto questo, la reputo altamente poco plausibile. L'Iran non ha bisogno di un nemico esterno, ma ci avrebbe bisogno semmai di diciamo più pace, mi lasci parlare questa parola che forse è un po', lascio usare questa parola che forse è un po' banale, però insomma avrebbe bisogno di tranquillità ai propri confini. Abbiamo visto un Iran sotto pressione in questi mesi, le proteste in Libano, in Iraq, all'interno dell'Iran stesso, quindi l'ultima cosa di cui ha bisogno è appunto una guerra con un nemico esterno. E se posso appunto aggiungere a quanto diceva il vostro corrispondente, appunto oggi Trump ribadendo che è pronto a approvare nuove sanzioni dimostra che non ha una strategia, perché appunto un conto è fare le sanzioni con un obiettivo politico, perché le sanzioni sono uno strumento a disposizione. Per fare pressione per un politico, qualche obiettivo, dice. Esatto, ma qui non si ravvisano obiettivi, se non quello appunto di questo nuovo accordo, tra l'altro appunto oggi ha esortato i paesi che rimangono parte, l'Europa, la Cina, la Russia, a uscire dal programma nucleare, dall'accordo nucleare, infatti da una parte dice pacifichiamoci, però dall'altra spinge anche gli altri partner europei e occidentali, Trump, a uscire da quell'accordo nucleare che Obama aveva sancito insieme all'Iran, no? L'ex presidente americano. Vuole concludere per Teghella? Sì, no, appunto, l'unico obiettivo che sembra all'orizzonte in questo momento è quello di rovesciare l'eredità di Obama, ed è veramente allarmante, lo dicono gli analisti in queste ore, che appunto tutto questo caos si arriva ogni volta tanto così vicini all'escalation, tutto per appunto motivi di semplice politica interna, diciamo così, da parte di Trump. Bene, su questo chiuderei e aggiungo solo che l'Iraq oggi ha convocato l'ambasciatore dell'Iran dopo questi raid, perché sono stati fatti sul territorio iracheno, che viene conteso appunto in Medio Oriente con l'Iran, che vuole la sua ingerenza, in particolare gli Stati Uniti che contrastano, e poi ovviamente sapete che il Medio Oriente è sempre naturalmente territorio di, purtroppo, di interessi, di conflitti, eccetera eccetera. Quindi ha convocato l'Iraq l'ambasciatore iraniano dopo questi raid per violazione della sovranità, anche se in questo momento non si sa quanto possa contare il governo iracheno. Grazie a Annalisa Perteghella dell'ISPI, grazie Marco Valsania, grazie a voi. E adesso tra poco parleremo di altri argomenti. Vedo un'agenzia di aggiornamento sulla notizia della famiglia reale inglese. Caos a Buckingham Palace. Vi dicevo che la notizia di poco fa era che Harry, il secondogenito di Carlo e Diana, e la moglie Meghan hanno deciso di rinunciare allo status di reali. Adesso l'aggiornamento è che è scoppiato il caos dopo questo annuncio sul passo indietro dei due della famiglia reale. Ora frenano e parlano di discussioni allo stato iniziale, poi scopriremo insomma a che punto sta la faccenda. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Continuiamo con gli ospiti, approfondimenti delle notizie, Roberta Giordano sempre con voi, poi parleremo appunto di questi sviluppi a Buckingham Palace, ma prima di tutto sulle questioni nostrane con il nostro Andrea Ferro. Ciao Andrea. Ciao Andrea. Allora, il Tribunale del Riesame, colgo lo spunto da questa notizia, il Tribunale del Riesame di Avellino ha bocciato le tre istanze di dissequestro dei cavalcavia autostradali, fra cui quello del Cerrano, presentate da Autostrade. Stiamo parlando dell'A14, delle barriere sull'A14, anche Confesercenti è pronta a citare Autostrade, perché dice con questi blocchi la circolazione dei mezzi pesanti, che appunto è difficoltosa nel tratto adriatico centrale, sta paralizzando l'economia cittadina di Pescara, Montesilvano, Città Sant'Angelo, eccetera. Facciamo un punto in sintesi, Andrea, su questa situazione e sulla cavalcavia e punti delle autostrade, insomma, ancora dove la manutenzione e gli interventi devono essere fatti. Sì, allora, quello della 14 è uno dei fronti, quello diciamo di maggiore attualità in queste ore. Come dicevi, ci sono code in seguito all'interdizione dei mezzi pesanti del viadotto Cerrano, che è nel tratto tra Pescara Nord e Atri Pineto, con i tir che sono deviati sulla statale Adriatica che è completamente paralizzata dai tir. Pensate, ieri nel comune di Silvi Marina, che è quello più interessato da questo caos stradale, in Abruzzo, in provincia di Teramo, sono transitati 4.000 tir nell'intera giornata, con problemi chiaramente di traffico, ma anche problemi di emissioni inquinanti, anche problemi per la sicurezza stradale, perché c'erano i semafori che, per garantire il flusso della coda, perché non potremmo dire certo un flusso regolare dei tir, sono stati anche bloccati i semafori agli incroci, appunto per cercare di stappare l'ingorgo, anche se è stata un'impresa impossibile. Questa è la situazione, ripeto, nel comune di Silvi Marina, che è stato un po' al centro dell'attenzione in queste ore. Dicevi del sequestro, che non è avvenuto perché il riesame non ha accolto l'istanza di Autostrade, però la notizia che vi do è la notizia di queste ultime ore. Sì. Riguarda la possibilità che domani, in un vertice al Ministero a Roma, si valuti nuovamente la situazione di questo viadotto cerrano alla luce degli ultimi rilievi, degli ultimi studi commissionati da Autostrade, secondo i quali la sicurezza del viadotto è garantita anche se vi transitano i mezzi pesanti, e quindi Autostrade ha annunciato in una nota in queste ore appunto che domani proverà attraverso il Ministero a portare avanti questa tesi e quindi a sbloccare la circolazione anche per i mezzi pesanti, e questo chiaramente consentirebbe un pochettino, perdonami l'espressione non elegantissima, di stappare, diciamo così, il blocco che si determina con la deviazione dei TIR sulla statale adriatica, che resta paralizzata con i problemi che dicevamo. Questo è uno dei fronti caldi, quello diciamo più caldo in queste ore. E su questo ore, perdonami Andrea, poi Patuanelli, ministro dello sviluppo economico in quota 5 Stelle, su ASPI, quindi su Autostrade per l'Italia, gestito dalla società Atlantia che è della famiglia Benetton, ha detto stasera Porta a Porta, nella puntata registrata, quindi questa è un'agenzia di anticipazione: sono certo che quello sia il risultato che dobbiamo ottenere, cioè la revoca della concessione ad Autostrade per l'Italia. Quindi ha ribadito questa cosa. Beh sì, certo, da parte diciamo dei 5 Stelle da sempre, dal crollo del Ponte Morandi, e poi alla luce anche degli ultimi episodi, lo ricordiamo, e stavo arrivando lì, ricorderete il 30 dicembre all'ora di cena il crollo nella galleria Bertè della 26, qui siamo in Liguria, un altro nodo molto caldo, lo è stato durante le feste, con code infinite sulla 10, con i villeggianti diretti in riviera imbottigliati in questo maxi ingorgo, bloccati per ore. Anche questo è un fronte caldo, da qualche giorno ci sono i pedaggi dimezzati tra Pra e Varazze sulla 10, poi sulla 26, che è l'autostrada dei viadotti che erano stati temporaneamente chiusi sempre per ragioni di sicurezza, alla fine di novembre è chiusa questa galleria e ci sono restringimenti di carreggiata su questi viadotti, poi la 7, la Genova-Milano, dove c'è un viadotto verso Milano con un restringimento, e poi la 6, che ricorderete il 24 novembre il crollo della carreggiata, va detto che questo tratto non è gestito da ASPI ma da un'altra concessionaria, il crollo della carreggiata nel tratto tra Savona e Altrare, ricorderete per puro miracolo in quel momento non stavano transitando veicoli, si transita a doppio senso sull'altra carreggiata, per fortuna le due carreggiate sono separate, però in caso di allerta maltempo l'autostrada per ragioni di sicurezza deve essere chiusa. Questo determina anche sull'area genovese, sull'area ligure, grossi problemi nei collegamenti logistici dai porti verso il nord, e anche su questo fronte sono in corso dei vertici praticamente interminabili tra Genova e Roma per trovare soluzioni, tra queste anche quella di anticipare le operazioni in banchina nei porti di Genova e Savona alle 4 del mattino, questo per allargare appunto la fascia oraria di lavoro e quindi evitare gli ingorghi nelle fasi centrali della giornata. Insomma, questo è il quadro generale, sui due fronti più caldi, lo ripetiamo, quello sulla 14 tra Abruzzo e Marche e poi sul nodo autostradale attorno a Genova. Grazie Andrea Ferro. Grazie a te, buonasera agli ascoltatori. Queen, anche in situazioni, sappiamo, la regina Elisabetta II abituata insomma a difficoltà, a imprevisti, a intoppi eccetera eccetera, anche a tragedie. E adesso che cosa succederà? Poco fa l'annuncio di Harry e Meghan, Harry sapete secondogenito di Carlo d'Inghilterra e della defunta Diana, che ha sposato appunto da qualche tempo Meghan, di origine afroamericana, quindi abituato lui a essere il ribelle, quello differente all'interno della famiglia, quello insofferente anche agli stereotipi, a troppe etichette. Hanno dato notizia poco fa, l'ha detto alla data anzi Buckingham Palace stessa, che i due hanno deciso di rinunciare allo status di reali. Però, e qui coinvolgo subito la nostra Enrica Roddolo, firma del Corriere della Sera, grande esperta di teste coronate, ha scritto un sacco di libri sulle famiglie reali di tutto il mondo. Ciao Enrica. Buonasera. Allora, l'aggiornamento di poco fa e l'annuncio del passo indietro era stato diffuso proprio da Buckingham Palace, ma adesso si frena e si dice che è soltanto una discussione, così una discussione iniziale. Le discussioni sono solo allo stato iniziale. Come mai? Qual è la situazione? Evidentemente anche in questo caso viene da pensare, come nel caso recente, di poche settimane prima del Natale, quando ci fu il grande caso del principe Andrew, che fu travolto dallo scandalo Epstein a New York. Anche in questo caso non c'è stato evidentemente un perfetto coordinamento delle azioni mediatiche nella Royal House, cosa abbastanza inconsueta che a distanza di poco tempo ci siano queste imprecisioni nella macchina sempre efficiente e infallibile della famiglia reale. Dunque sicuramente Harry e Meghan dall'inizio, da quel sì da favola a Windsor Castle che fece sognare il mondo, avevano però fatto capire immediatamente che erano dei reali molto diversi da William e Kate, quindi molto fuori dagli schemi, molto appunto più autonomi e decisi a conservare la loro vita quotidiana all'insegna di una normalità forse impossibile da inseguire se si porta sul capo una corona. Da qui il desiderio di ricollocarsi in qualche modo all'interno dello scacchiere di casa Windsor. È vero che a corte sono da anni, non da mesi, da anni in corso delle riflessioni profonde e molto serie su un percorso di ripensamento dell'intera Royal Household, e probabilmente cogliendo appunto nell'aria questo desiderio i duchi di Sussex hanno fatto il passo avanti prima che ci fosse una decisione ufficiale di Buckingham Palace, che poi è stata costretta quindi un pochino a frenare l'effetto a catena, a valanga direi, della dichiarazione affidata ai social come loro solito da parte di Harry e Meghan, con la quale meno di un'ora fa annunciavano appunto il loro desiderio non di rinunciare al titolo d'ascensione, ma di rinunciare alla loro caratteristica, alla loro natura di Signor Royals. Cosa vuol dire Signor Royals? Signor Royals sono i reali effettivamente in forza nel supportare la regina in tutte quelle attività di royal engagement che contraddistinguono lo svolgersi della vita a corte e non soltanto a Londra ma anche nei paesi del Commonwealth nel nome della regina, e quindi di ritagliarsi un ruolo, se vogliamo, di reali di seconda linea. Vedremo adesso cosa succederà, se sarà effettivamente così, perché certo questo veramente scarno, due livelli di comunicato e messo anche probabilmente un po' in emergenza, proprio colti di sorpresa da questa mossa di Harry e Meghan poco fa da parte di Buckingham Palace, un pochino frena lo slancio così di indipendenza e autonomia di Harry e Meghan, e dice insomma sì, stiamo ragionando su quale sia la formula migliore, ma non abbiamo ancora messo a punto nulla di preciso. Abbiamo solo 20 secondi, sì. Enrica, per dire, ma in questo modo sì. Uscirebbe dalla successione nel caso Harry, anche se è molto lontana dalla successione. Allora, ecco, no, abbiamo 20 secondi, sì. Certo, non è scontato che esca dalla successione perché, appunto, come dice l'ultimo comitato di Buckingham Palace, sì, avranno più autonomia perché un ruolo nuovo si sta pensando per loro, ma non abbiamo ancora definito in quali confini sarà questo ruolo, quindi chiaro. Nulla esclude che comunque, e anche perché non sappiamo il destino cosa possa riservare per il futuro di casa Windsor, e quindi avere uno spare, quindi un discendente in più, non guasta mai, anche nelle case reali. Bene, vedremo un po' cosa sarà l'esito e quale ruolo si ritaglieranno. Grazie Enrica Roddolo, il Corriere della Sera. Ciao Enrica. Grazie. Ciao. Grazie, buon lavoro. Buon anno, ci aggiorniamo alle 22 brevemente.